Italia, Radio Italia, Network Italia, RIN, Network Radio Italia, RIN, Radio Network Italia, Network Radio RIN, Italia, Radio Italia, Network Italia, RIN, Network Radio Italia, RIN, Radio Network Italia, Network Radio RIN. rotto le dita a una mia cara amica. Non voleva baciarmi, ma ora è pentita. 40. Radio Italia Network. No, di Gigi D'Agostino. Chiudi gli occhi e attento a chi tocchi. Questa canzone c'è per diventare migliore. Inizia a viaggiare col cuore. Thank you.

18 sono 30, 4 volte 10 3, 20, 30, 40, 100, meno 2 fa 38, e il conto storna così, no? Olos, los 40 mi fomentas, vai Fabiolas, mi fa troppo